domani, gli ultimi ritocchi, vabbè, pare ci vediamo giorno noi, comunque ti avrò bene lo stesso, e adesso mi sono stancato anch'io, mo basta, allora si arrangiano fra poco, non ne porto più domenica, e io ce l'ho a faccia, vuol dire che non ho fatto nessuno, la tappa. E io non c'è altro nessuno, ancora il chicco, sono tutti a nanna, la gente si riposa, no, io anche stamattina la radio non c'è problema, e allora la chiamata, anche ora la fai, ma ieri c'ero io sino alle 9:20 con Marco sul canale 10, c'era anche altra gente, a volte alle 8 non c'è più nessuno, capito? Cosa? No, va bene, io ti ascolto bene. No, non mi sono anche accorto. Io ti sto ascoltando benissimo, alla grande. E figura di Edo una manzana. Bisogna venire a zicca e mezzo, uscita di sì, ti dico proprio. Tutte le domeniche la stessa storia, cosa pensi? Una sì, una no. Sempre a me sotto pieno le domeniche. E oggi te ne vai. Ma perché così presto? Ah, però c'è una verba, ce l'ho. C'è la Tirrenia che la sta entrando alle 7. Ho capito, ho capito. Capito, ti ho. E io ce vuoi fare, ci bisogna fare isso, e boh. Infatti, bisogna proprio attraverso il conto, chi ce l'ha, ce lo tiene. La gente che non ha nulla. 2 mesi, gennaio 2018. Fatti da giudizio, sono gli ultimi ritocchi. No, no, mi fatto quello di dicembre a casa, non ti preoccupare. Mi faccio 40 di ferie, va. No, da gennaio non ci sono più, cioè praticamente no, non ci vado più. Ho 40 giorni di ferie da fare oggi. Infatti voglio lavorare tutto novembre e poi farmi tutto novembre, quasi. E poi farmi tutto dicembre a casa, capite? In ferie proprio. Alla fine sì, beh, certo. E sempre tu comanda mio, oggi. Se mi lascia, già sono giovane, se poi dice che no, non ci faccio niente, allora ti rimessa subito, arrivederci, buon viaggio. E infatti, capito? Sicuramente lì si vaga che, come ti diciamo, gli si maghi che fanno morire i pensionati prima per andare a pensione. Fare la domanda, a me me li hanno dati quelli di Cagliari, capite? Quando lavoravo all'impianto del fenolo, in piattaforma lì alla Saras, me li hanno dati, lo so, lo so. Anche quello è un pericolo, e anch'io sono stato esposto parecchio, ho fatto l'impianto del fenolo alla Saras, l'impianto del cloro lì a Porto Torres, quindi sono rimasto un po' esposto qualche anno, perciò, e anche io, non te la ricordi com'era giù a Linic. Tutti i capannoni che avevamo erano tutti con cemento amianto, perciò comunque vabbè, speriamo bene, dai, a Futtidini, arrivato sì, in piazza sì, non ci arrivo io lì in piazza, no? E vabbè, già ti sento lo stesso. Cosa oggi? Bisogna andare, fare, muoversi, se no è un casino. Non ti sento oggi, cosa hai detto? E gli hanno detto mio fratello. C'è la festa della birra a Portore. Chi andiamo a B? Io già non ho giù di venuta. Sto cuscio a casa. E gli ho detto che vai a casa io. Ma stasera me della birra 5 euro. Sto bene a casa, ma bevo birra io. Yes, yes. Cosa? Ma noi sì, che sta arrivando basso, anche un trombone lì neanche, c'è macchina, raga. Quando stai? Ah, io esci di là, dal cristallo, piazza Colombo, sì. Non arrivi manco a gratti, sì, no? Quindi basso, basso, sì. Sì, ma ti sentivo anche poco fa, solo più basso. E lo gioco in ieri, che mi dai bassi. Ma sei già entrato, sì, al varco. Se sei già entrato al porto. No, non capito. Dall'altra parte, quindi stai andando alla... alla parte della portineria mare, vero? No. Lì l'avete fatto a sciocca pannone. Rimettete tutti i trattori adesso. È meglio, eh. È meglio, sì. Sennò prima erano tutti fuori i trattori, mi ricordo io, sempre lì nella... dove c'è la banchina dell'Asi. E un casino, ma va Gianni oggi. Ah, così è. Invece tu sei di prima, così, tu sei davanti alla triglia. E vabbè, era di una mano un collega, eh. E io non faccio così, non sono reperibile. Vado io sempre, senza chiamare gli altri. E invece dovrei chiamare io agli altri, invece vado sempre io. Cos'è qua? Va. Non ti cambia la vita, no? Già va bene lo stesso oggi. Perché vedono che sei disponibile, davanti a me. A me, pari gatti, hanno eseguito il telefono mio. Non è che stanno lì a tira e molla. Chiamo Eugenio e basta, perché sei disponibile. E perché sanno che non dici di no, capito? Davanti sei cosa a me. E non è tanto da riferire, da riaggiustare. E vera sede, tu in chi vi era mai peggio di me. Non ci siamo sposati col lavoro oggi. Io se avessi avuto la moglie, io sarei già divorziato, invece non era fatto nulla. E appunto, te lo sto dicendo, a mia moglie piace stare molto a casa. Non vedi chi si gira l'uomo, se no sarei già divorziato, cosa? Ehi, ehi, andava oggi, dai, si è arrivato, ci sentiamo stasera, allora se coincide, ok? Ciao, ciao, oggi. Cipollino. E 15? E 16? Così è. E così è. Buonasera. Allora, che si dice? Chi c'è? Beh, nessuno penso. Ciao, gli affari. Ora stavo guardando un po' di TV. Adesso ho acceso, sono qua. E anche oggi c'è questa, c'è questo tempo, così ci divertiamo a raccogliere sta. Cioè veramente inizia a avere anche paura, cioè poi magari la pioggerellina se la fa, se siamo con cacca, non fa potermi con la paura. Ma non la fa pioggerellina, fa pioggia. Domani c'è che ha dato pioggia, boh, non so se piove. Siamo il terreno sta stoppando, cioè è finita la sabbia, stanno nascendo pietre all'altro, polvere, polvere calcarea, perché basta la terra non c'è più, non partire niente, la mattina ce n'è, c'è abbastanza freddo, non so se ho freddo umido, quello cattivo, quello che fa malare. A mezzogiorno e anche adesso c'è un caldo boia, poi di nuovo più tardi scende la pagliazza e si bagna tutto. Boh, boh. Ehi, la salva, non lo so, comunque il cambiamento c'è. Vedrai tu che c'è il cambiamento. Forse già da domani o da lunedì il cambiamento c'è. Il cambiamento certo che c'è. Dai, se decidi oramai per non ammetterlo, perché molti sono di quelli che mettono la testa sotto la sabbia. Però penso che nei prossimi anni ci arriva, ne vedrà delle belle. Perché sta tutto cambiando, sta tutto distruggendo, le piante stanno soffrendo, ma molte da non sono morte oramai. Boh, è un disastro. Mi ha detto che c'è il coso lì, di Ghindo, che è quasi all'asciutto. E tutto è l'asciutto, se non piove siamo già sotto il livello di guardia. Dobbiamo invasare almeno 10-15 milioni di metri cubi d'acqua, se no manco l'inverno arriviamo. In inferno, perché? È per il detto che ci siamo arrivati. Beh, almeno dicembre, gennaio, febbraio deve piovere bene, poi marzo, da aprile in poi, se piove questi mesi bene, ci invasiamo bene, siamo salvi per l'estate, se no al prossimo anno ci facciamo due risate e ci faremo la doccia per buttare l'acqua minerale. Un casino senza acqua, l'acqua è indispensabile per tutti, a meno che uno sia binghinoso e non si lava. Ma anche per la campagna, perché noi stiamo formando dei crateri, dei buchi, no? Si spacca tutto, ne ha paura di piovere, non succede niente. Quando, anche se piove, si fa un po' da patrone, siccome che non abbia piovuto, perché l'acqua come scende sotto, questa specie di crateri che si forma. Oh, vabbè, e meno male che qualcuno fa finta di niente, di mettiamo il carbone, mettiamo questo, o l'imbecille americano, grazie ai cibi, quello sta bruciando tutta la California ancora. No, io chi è la campagna, chi abita la campagna, deve avere il pozzo, deve avere il pozzo, il pozzo è indispensabile in campagna, capito? Il pozzo, ce l'abbiamo noi qua, noi quando manca l'acqua in rete, c'è l'amministratore, arriva, attacca il pozzo, riempie la cisterna, ci vuole, e a me non mi è mai mancata l'acqua, non so cosa vuol dire mancare l'acqua qua, capito? Ci vuole il pozzo, in campagna ci vuole il pozzo. Sì, ma io ad esempio non ce l'ho, 100 metri di profondità, però già lo sai, se continua così, pozzo non pozzo, anche quello si asciuga, perché con queste temperature, così tardive, è veramente un disastro. Lo so. Però ci vuole il posto già qua, perché non ha sicurezza, già c'è l'acqua, e trovo la vena giusta. Mia madre ce l'ha 40 anni il posto, ma mi è mancata l'acqua. Capito? Mai è mancata l'acqua. Perciò. E cosa vuoi ti dica? Non lo so. È certo che anche nel piano lavorativo senza acqua è brutto, perché anche a me serve in determinati impianti, su cose da fare mi serve l'acqua, acqua piovana, per pulire bene le condotte, per fare invece le caritoie, invece tutte le caritoie ancora piene di terra, di foglie, invece se fa una bella passata d'acqua pulisce tutto, arriva tutte le griglie riempiono i sacchi e vabbè. Invece se continua così sono da fare tutto con l'autospurgo e quindi costi in più. Infatti, ma poi non ho capito perché hanno chiuso il Bundari. Io da piccolino ho conosciuto sempre pieno d'acqua, c'era la sassa di Tuginas, allora era, non so che ce l'avessero tutti, era solo qualche quartiere. Adesso mi ha ricavato, sarebbe stato prezioso. Dillo al sindaco di Sassa. Non questo, non quello c'era prima. Ha voluto fare un barco, vai di un mutinaccio, sta abbandonato. Quello era un invaso anche a livello naturale, perché quando pioveva c'era una corrente d'acqua che scendeva lassù e si riempiva l'invaso da solo. Di acqua piovana, capito? Ed era una sicurezza per Sassari. Perché quando c'era l'ESAF avevamo nel passato una linea e quindi c'era la possibilità di non far mancare mai l'acqua a Sassari. E invece siamo sempre punti a capo. Infatti a volte si ha l'impressione che questa gente venga messa lì tutto per far danno. Sono tutti in valla. Cioè, ma quando mai togli un bacino? La Sardegna, meno male, è stata sempre un periodo di città, diciamo. Non mai come adesso è una cosa eccezionale, ma non so, la Sardegna a livello di senso di tutta Europa, perché sta succedendo di tutto di più, vedo momenti che stanno scendendo, si stanno sgretolando anche lì, perché la roccia senza ghiaccio no, si spara, la denotazione è tremenda. Veramente è come quello che si stava dicendo con l'americano. Peggio stiamo e peggio ne arrivo l'imbecille. Lo so, caro mio, lo so, però è un casino. È un casino, sì. Però è arrivata questa ora per me, una tragedia, non so sapere, alla fine lascia la pizza. Diciamo, ne ha preso una... Questa è analogia dell'influenza, che cazzo è? Che cosa? Che ti dà mal di gola e... Ma io ho la finestra aperta e ci sono 23 gradi interni, sta benissimo alla grande. C'è una bella rietta. Ma io poco fa ero fuori, che stavo pure definito, ma ho detto di tutto, se ti fai nudo, ma ho sofferto, veramente il caldo. Ho visto stamattina, mi sono fatto freddo, c'era questa cappa proprio, sembrava nebbia, poi come si è aperta già dalle 8 e mezza alle 9, è un caldo allucinante. Sì, ma infatti il problema è quello che è rapido, ti tronca lo sviluppo, cioè mai vista una cosa, sbalzi termici di questa portata nel giro di appena una giornata, prima succedeva una ora alla mezza. Adesso che ti sta parecchio. Sto dicendo che se cambia il tempo, ma dice che ancora è così stabile. Andremo a finire anche noi con i calatori. E poi quando arriva il freddo soffriamo al freddo e poi qui e poi là e già vabbè, a me la temperatura così va benissimo, tra l'estate doveva fare così invece di sugare il freddo. Ma infatti adesso dovremmo essere in autunno, ma non siamo in autunno, siamo in primavera con quasi l'estate, e però come si accorge che esce presto la mattina, non è normale avere, io praticamente non vedo sacca della mattina, anche se ci sono le luci, perché sono queste nuvole di umido pazzesco, è un casino. Vabbè, e tu qua di là è tutto finito, ma non sei intenzionato ancora a fare il grande passo, sì. No, Gianfranco, il discorso è che mio figlio è tutto finito, tutto a posto. Lei ha fatto, diciamo, tutto. Io devo aspettare alla fine a vendere qua Gianfranco, se no non altro doppio. Sono tutte le risorse, se ne vanno. Capito? È già finito, ho frammentato tutto, però ci mancano le porte interne, gli uffici esterni ci sono già, le porte interne, una parte dell'arredamento e finire qualche altra cosa, capito? Però aspetto che di vendere qua per potermene andare definitivamente e finire tutto, capito? Io vendo qua, metto una clausola per dire di 6 mesi, 6-7 mesi, 4 mesi, non lo so, prima di consegnare, finisco tutto lì e poi non faccio altro che consegnare chiavi e andarmene, capito? Così mi metto l'agenzia. Però sono un sacco di cose da fare, Gianfranco. Non voglio uscirmene di casa, capito? Anche perché, come sai, non so se hai sentito, ma io a gennaio ho finito 2018, quindi faccio tutto uno, capito? Senti, poi è inevitabile che diminuisce, diciamo, di tutto, perché non puoi fare straordinari se c'è bisogno, insomma, è sempre una situazione un pochettino da stare attenti, giustamente, con la liquidazione che fanno durerà, se ne va a sedere qui. quindi non puoi contare neanche su quella. E ho deciso di andare, io sono già passato, quindi non so bene, ma penso che sulle clausole, se uno proprio non, se l'acquirente non le hanno buttato fuori casa, dovresti essere tranquillo. Di Roma le danno un fatto lì. Ma di lì ci abita qualcuno, sì, già, cioè non è lasciata sola la casa. No, c'è mia figlia, ma c'è mio, c'è qua, che è sceso a fare i capelli della mamma, ma è stasera se ne riva. Se non ho qua, poi se ne vanno, capito, col ragazzo. Niente, sì, ma è così Gianfra, ci vanno in piedi di piombo perché ho già anticipato tanti soldi, con la vendita della casa di via San Francesco ci ho messo più della metà dei quattrini per poter arrivare a quel punto che è ferma adesso, però poi mi avevo detto basta, fermiamoci qua, tanto la casa ce l'abbiamo, nel frattempo vediamo, se riusciamo a vendere questa va bene, se no al momento in cui vai in pensione, intanto un paio di mesi, si continuano i lavori, però, capito Gianfra, piano piano, dai, se no è un casino. E tutti abbiamo fatto così, piano piano, noi dopo 3 anni ancora stiamo facendo dei lavori, degli assestamenti, eccetera, anche perché ogni tanto c'è qualcosa, qualche imprevisto, e quindi si è sempre lì facendo. Il 95% dei lavori, se non anche il 100% li faccio io, li fanno i cognati. Quindi non ci abbiamo spese di manutenzione, se no guai. Ma veramente, se fossi uno di quelli che non è esperto, che non so, mettersi un cancello a cambiarti qualche telecamera, a controllare i filtri, a smontarli, a ripiazzarli, a pulirli, ce n'è da veramente ti dissangua, sarebbero 100 lì, 150 a quello, 200 a quell'altro, cioè chi ce l'ha fatto? Sì. Abbiamo speso solo più di 1000 euro per pulire il viale, capito, dagli alberi, il vialetto. E noi per fare un pezzo di, che era fatto in ghiaia, un pezzo del cortile dove ci sono le uscite, sono andati quasi a 3000, quindi già lo so. Lo so Gianfra, di là, il viale è lungo quello, un bel lungo, un bel grande, ci vuoi piazzare, quindi a pulirlo c'erano delle persone lì che conosciamo, c'erano tutto pulito, con la scala aerea, tutti portati gli alberi, portata via tutta la roba, quasi 1000 euro mi è costato. E beh, ti hanno portato anche bene, se c'è la scala aerea, qualcuno fa anche 300 euro a giornata, no? Secondo la scala aerea, quindi no, a giornata, forse se sono chi chiami anche ora. Perché mi ricordo già tanti anni fa, quando ero in condominio per cambiare le cose delle grondaie, ne abbiamo dovuto girare parecchie, perché le cifre erano veramente grosse. Comunque, secondo il mio parere, la mia esperienza, non c'è paragone, guarda, non c'è paragone. Si ritorna in un certo senso a vivere, non vedi l'ora di tornare a casa, veramente. A differenza di prima, che c'era il condominio, c'erano i buzzurri, eccetera, la gente che lo fa un ballo, ma ci sei solo tu, sei tranquillo, ti ritorno a passeggiata, ce n'era a passeggiare, insomma è tutto un altro mondo. Guarda, la notte vedi il cielo, c'è l'acqua, la sassa del panorama, l'aria, se qualcuno non mette fuoco, è abbastanza pulita, quindi non mi sono pentito, anzi a volte mi dico ma perché non abbiamo fatto la prima. Aspetta un secondo Gianfra, ci sono tre. Ok, stop. Vabbè, arrivo subito. Claudio, mi senti? Chi è? Frank. Franco, tu sei? Aggancia. Corrente? Io. Finalmente arriva bene adesso qua a Sassari. Arriva a Santiago Nova. Ehi, quanto è il tuo Nerami? Torna a 3,20, solo che lui sul parlato sta intorno ai 2,80 adesso. Quando le metto il microfono di tavola, speriamo che riesca a spingere un po' di più. Quell'apparecchio che vuoi comprare produce formagelle. E insomma, se le metti già le fa. Già va bene. Ma te parlo di quello che hai visto con quello che ha attaccato Massimiliano? No, ma quello... quella è una cosa, me l'ho ordinato anch'io, te l'ho detto, quella è una cosa fenomenale, veramente. Quello della RAI va lì, a dai incrociati, CN801. Vai, anche a Sassari, ti ricordo che domani ha dato pioggia. Giuseppe, domani ha dato pioggia, e figurati io che sto lavorando. Domani mattina, ho penso già la stanotte, ha dato pioggia. Viva Inzu. Valerio, no, io stavo rispondendo a te, ho detto e mi ho ordinato quello della Daiwa CN801, che è un bellissimo rosso, mentre lei è incrociato, lo conosci, un regalo, me l'ho ordinato così per regalare, ne avevo uno vecchio, e allora mi sono ordinato quello nuovo, capito? Prossima settimana arrivo. E beh, soprattutto tengo sotto controllo l'amplificatore, e quello che ho me l'ha sfasciato due volte lo strumento, perché non era un incrociato, capito? E quello della live, no? Penso ce l'hai anche tu quello, l'ho visto nella foto, no? No, questo è bello da incrociarti. C'è anche lo strumento illuminato, molto bello. Già va bene, ok. Ero al telefono, vediamo un po' se c'è Gianfranco. No, Gianfranco si è allontanato. Ok. Stavo cercando il numero del telefono di Capri per dare a Capri, ma non lo trovo. Così hanno detto, perlomeno se vai a vedere su internet ci sono. Ha dato pioggia domani. Ho capito. Precipitazioni sparse, non ha dato temporale. Già va bene, e già pioverà sicuramente. Va bene, dai, X anche per me, se no sto tutta la sera radio. Ci sentiamo dopo, Giuseppe, anche per te, Valerio, ok? Gappa, ciao, Tino, sì. Che c'è qua? Tua sorella. Ehi, se ti racconto. Oggi mi ha preso, non so, questa sonnolenza, mi sono svegliato la mattina, ho fatto colazione alle 9, poi riaddormentato, poi mi svegliavo, mi riaddormentavo e così fino alle 2, 2 e mezza, dove sono stato più sveglio. Poi di nuovo mi viene l'abbiocco, mi svegliavo, mi riaddormentavo, questo mi sono svegliato definitivamente alle 6. Ma appunto la mosca Zezé davvero, infatti sono tutto rimbambito, sono, non... Ma cosa allucinante, mi Claudio, stavo ascoltando voi, dalle 6 in poi state parlando del clima con Gianfranco, già c'ero, però non ero in condizione di parlare. Poi sento qualcuno al baracchino, allora ho attaccato lì, ma proprio giornata strana. Tu, se ti sento il piangere vuol dire che ne avevi voglia di parlare. Ehi, per svegliarmi un po', poi già sento qualcuno, era Pomponio. Peraltro arriva molto bene, ha una bella radio oggi. Y, capito? Non K, Y. In FM è buona. Poi qua vabbè, non... dopo che avete chiuso, Gianfranco, ho chiamato più volte ma non rispondeva nessuno, mi ha detto che eri al telefono con Capri. E poi ho sentito, mi pare, Giuseppe che faceva prove con Valerio, no? Adesso. Sì, perché almeno mi senti di lì, bene mi senti. Sento bene lì. Ha voglia. Se non arrivi tu non arriva manco Pomponio me. Sì, Pomponio già aveva una bella modulazione ed era l'Y, quello dato da me. Ecco, peggio. Si tratta bene, dai. Bene. Ma vedo che Natalino entra più tardi di me pure, ah? Eh? Magari si sveglia alle 7, che ore sono? Chi sono le 7? Vediamo. 18.52, tra poco entrerà, dai. Boh, no, perché la mia radio non è buona, ma ti ricordo che io ho l'antenna nella finestra, lui ce l'ha sul tetto l'antenna. E sono sicuro che ti arriva quanto ti arrivo io. La radio mia com'è lì, buona? Sì, buona, buona. Lo stesso, aspetta, e sentiva il segnale era buono anche. Smitter non ce n'è qua. Cioè, già lo sai, no? Se c'ha quel simbolo dell'antennino tipo il cellulare, ma non c'ha le tacche, capito? E quindi è inutile, non ne dà segnali. Persino il V3R aveva lo smitter, che grosso modo potevi capire, no? Il segnale. E così è il V5R, capito? C'ha quello simbolino, quel triangolino dell'antenna, ma non ne dà segnale. No, il mio c'è lo Smith, vabbè, arrivate tutti bene, sento anche Graziano con l'antenna nella finestra, figurati, invece col gomino non lo sento, favolosa con l'antenna, micidiale, vabbè, ok, poi chi c'è? Alla fine erano tutti là e qua non ci viene nessuno, esce a vedere se ci sono ancora. Sì. Aspetta, come arriva il chiaro, eh? Beh, via Isu. Trovata, no? Si attacco 475H, va 100 watt, altro che quello con le SM20, ma non puoi entrare lì con una radio del genere spreccata, capito? Quello è un giocattolino rispetto a quello che c'ho io, però va bene, quadri bande, funzionano bene, meglio di chi si aggregata, chi fa via prima, Ma quell'apparecchio ha 100 watt in UHF, minchia, potresti mettere la portante a tutti. Io ho i due gemellini, 275H, che dà 120 watt in UHF, regolabili da 0 a 120, perché ne dà più di quando l'ho comprato. Il 475H ne dà esattamente 95, capito? Sono due gemellini, uno in V e uno in U, si chiamano 275H e 475H. Caspita, io dico che se usi quelle potenze e l'antenna esterna non parlano nemmeno dentro latte dolce, lo sai. Infatti no, non lo uso perché non mi interessa, uso il portatilino, ma se ho bisogno di rompere le palle ci accedo alla radio, non c'è problema. Con questo, che ci sono le due direttive, una a 9.20 e una a 12.20, sotto rotofe, sopra il tetto a 40 metri da far girare, capito? Una per le V e una per le U. Sì. Vabbè, oggi è sabato, sai, si fa un'eccezione, il giorno in festa. Ho sentito appunto che sì, il clima è l'onfio, maniche corte in pieno ottobre, anzi siamo già al 20 ottobre o 21 addirittura, adesso non mi ricordo, a maniche corte. Quindi stamattina ha confermato che c'era caldo, io non sono uscito, io stavo dormendo. C'era caldo, io sono uscito in camicia alle 8:30 e c'era caldo. Adesso stasera dovrebbe aumentare un pochino il vento, o aggreccare o maestrale, e domani dovrebbe piovere leggermente, se fosse così. Ma mi sembra molto strano, non lo so, vabbè. Cosa ti stavo dicendo? Mi ho ordinato il CN801, fate bugugurra, quel rosmetro vatti mentre l'avevo incrociato da l'EFA. Ah, il CN801, sì. Guarda che è uscito anche il 901, nuovo modello, CN901, con le stesse caratteristiche. E quello... quella sì, ma è quello ti fa vedere i veri picco, ti fa vedere sia i watt a VG che i picco, quello è veramente bello, quello quello sarebbe piaciuto anche a me, però costa 150 euro. Certo, come rosmetro è il rosmetro per eccellenza, è il rosmetro wattmetro, cioè non quelle cagatine che ho io. E vabbè, però non ne spendo più quelle cifre per strumenti, già mi tengo quello che ho, però quello è veramente bello. Quale hai preso, quello da 2 kW o quello da 3 kW? No, quello da 2, già va bene, quello da 3, io non ci arrivo a 3 kW, ne ho 1,5, già va bene. Ci si costa più di 150, io sono riuscito a farmelo avere spedito 150 euro, se no costava 168, più le spese di spedizione. Allora, siccome sono cliente, ho detto 150 euro spedito, ho detto vabbè, ho piscato, capito, e via. E lunedì me lo spedisce, lunedì me lo spedisce, ho convinto che era chiuso oggi, stamattina invece era aperto fino all'1:30, all'1, e quindi l'ho fatto stamattina all'ordine, capito, da Davide, da quello che si serve anche Gianni, una bravissima persona, e mi ha detto guarda, siccome oggi è sabato, non rompermi le scatole, domani domenica, te lo faccio, te lo spedisco lunedì, va bene, vai, spedisci lunedì, però l'ho fatto oggi, se no lo volevo fare lunedì. È meglio farlo prima, perché se poi lo fai lunedì te lo spedisci a martedì. Ma Dav, chi può essere radioworld.it, quello dove si serve Gianni? Esatto, Davide, sì, è una bravissima persona, quello serio. Sì, e poi non guarda le 10 euro, capito? E poi quanto sei caro, mamma mia, va bene, dai, te lo faccio, ti tolgo al trasporto, 150 euro, va bene, mandamelo subito la Giudizio. Via. Anche se, vabbè, adesso non posso fare il paragone, però visto da Media Globe i prezzi sono sempre inferiori. Per tutte le apparecchiature, che siano strumenti di misura, che siano antenne, capito? Media Globe è sempre il più basso di prezzi. Poi chiama Radio Shop, è più caro, sia per le radio, per esempio ho controllato l'857, l'8009, varie antenne, varie, insomma tutto più caro è da Ama Radio Shop, capito? E va bene. Mamma mia, quella giornata ronfia, mi riaddormentavo e sognavo, mi riaddormentavo, mi svegliavo un pochino, mi giravo dall'altra parte, riaddormentavo e sognavo. Tutti i sogni strani poi, proprio frutto di una mente malata. Guarda, era meglio che ce ne uscivamo. Ho detto oggi che bella col sole, andiamocene a Pratamona con mamma. Non mi ha nemmeno svegliato, non mi ha detto nulla, mi ha lasciato dormire. Uno scandalo, guarda. Perché poi rischio di dormire poco la notte se dormo pomeriggio o di mattina. Lo so. Ho detto, poi mi hanno dato, aspetta, poi mi hanno dato dei microfoni da prendere anche, un 85, capito, c'è qualcuno che serve, è uno che deve andare via, deve partire fuori, quindi sta dando tutta l'attrezzatura, c'è anche un bellissimo 440, con tutti i filtri, tutto scheda fonemi, tutto completo, simile a questo là. Molto bella. Però io ce l'ho già le mie, no, non li voglio intendere. Ehi, venga. Tu quando intendi cos'è? MC80, MC85 o altra roba? No, c'ho un MC80, un MC85. Poi c'ho un commutatore nuovissimo a 4 vie della Oxin, 440, che non ce l'ho qua però, perché non c'ho più posto, no? 440, un microfono normale, poi altre cose, capito? Vabbè. se c'è qualcuno interessato. I microfoni sono belli, sono nuovi, ma io ho 85 e ce l'ho avuto, è troppo forte per me, non fa. Capito? 85 va bene per chi ha la modulazione mica come la tua, come quella di Gianni, con queste radio. Allora canta messa, se no per me è troppo forte. Eia. Va bene. Vabbè, un deserto oggi, eh? Serratalino, ci sei l'ascolto? Tanto sono tutti là. Fede ruota con Antonello, c'è brutto buco. Ma perché anche Rantalino? Aspetta che metto il monitor, dai, che l'ho tolto ormai. Il portatile l'ho tolto. No, l'ho spento io, l'ho spento, e se no non ci capisco un accidente né qua né lì. Tanto lì non ci devo parlare, sono entrato già a fare due battute. E basta, capito? E io andiamo a fare cazzarra invece, a fare capolotto. Sì, poi dicono che sono sempre io che rompo le palle. No. Già oggi c'era gente, ma stava facendo le torre, era in tutta svolta, lì c'è gente, ma lì c'ero giù io, un canale di tutti, quindi ognuno può entrare a parlare e dire la sua, non ce n'è di obbligazioni lì. Anche Gio Maria c'è lì. Vabbè. E non posso stare tutta la sera lì, no? Se no dei baracchini cosa li ho comprati a fare? Anzi avrei dovuto, vabbè ormai domani, farli girare, non li sto usando molto me. 5.500 sempre fermo, lo faccio girare una volta al mese, 7.900, 9.900, vedi, sono usati pochissimo. Vabbè, 3.900, l'angelo dei baracchini, è inutile, non fa nulla da fare. Cioè domani era un Graziano, gli altri dove sono andati? Giulio dove? No, io ho sentito solo Gio Maria. Mi si è alterato lo squelch, però aspetta, mannaggia. Va bene, adesso lo lascio così, non me ne ha fatti nulla. Milomi? C'è Graziano. Vedi, al ricevitore non arriva Graziano. Portatile molto più sensibile. E comunque c'è uno sul forum che li odia questi apparati, wow, proprio non li può vedere. Eppure ci fai tutto quello che ci facevi, per esempio con quello famoso che avevo avuto io, come si chiama, aspetta com'era, il Kenwood TH75, che aveva addirittura i subtoni analogici, i subtoni opzionali, e costava 750.000 lire, mamma mia, mamma di turchi, una follia. Poi non c'era il DMR all'epoca, quindi me lo sono attaccato al sedere, l'ho rivenduto subito dopo, era lo sfizio, capito? Sì, 75, 78 ho avuto io, se c'è un UV, come si chiama quello della ICOM? Si chiama, ce l'ho qua, aspetta, solo ok, cos'è un tuo buon pallino? Eia, guarda, io andavo da Mario a sbavarmi, anche quando c'erano i famosi portatilini, a parte il TH75, Mario, ho venduto anche dei portatilini Kenwood, piccolini, col display piccolino digitale, ma erano dei gioiellini, erano, e costavano anche un sacco, solo te l'ho detto, non c'era nemmeno il PMR, non potevi nemmeno usatelo lì, sempre a rischio, è pericolo, no? Ovvio quello. E vabbè. No, ma comunque Pomponia non c'è più lì, non lo sento più me. Non c'è né Franco né Giulio, c'è più nessuno. C'è solo Graziano e John. Grazie anche a chi che stanno bene a parlare tra di loro. Vediamo un po' se Franco è qua. Ehi, ci sono? Ah, già ci sei. Sto facendo un lavoretto, mi sto ascoltando, dai. Aspetta che pimpante che sia. Cos'è attaccato? Solo a tiro. Il lumicino. Lucky Sugar, numero 5, sì. Allora bene, mi ascolti. Anche tu sei 9 abbondante con picchi di 9-10. Aspetta, questo 4.30, 4.60. Maledetta questa radio, è un fastidio che cresca più forte del 4.40, la massa viene di varia. Vai Marco lì. Non mi fa comprare, mamma mia, me lo compravo a me. Non faccio niente, tu non ti preoccupare. Qua siamo molto furti. Ciao a tutti, lo faccio l'appello perché non so chi c'è. So che stavate volando, ma io ero fuori, avevo qualcosa da fare, per cui adesso ho finito, sono qua. Buona sera a tutti, avanti, riprendo il più veloce, chi è il più veloce? Io sono il più veloce, dai, parlate tutti. Ciao Natalia, beh, Marco, Claudio, Franco, altri ce ne sono. E che più ce ne più ce ne mettiamo, vai, forza. Ok, buonasera a tutti, ciao Giulio. Ma ti sembra ora di entrare? Corre a messa aereo. Tutte le ore sono di Dio allora. Ciao Natalia, ciao Giulio, se vedi Natalia. Ok, aereo a messa. E tu cosa vuoi sapere? Un briacone pratico. Io ero addormentato fino alle 6, un incubo oggi, guarda. Poi stavo sognando tutte cose strane e allucinanti. Franco, tu sei 9.20 qua, praticamente 9.20, un bel segnale, è una radio pulitissima, pulitissima. Figurati, se dovessi mettere l'antenna sul tetto, guai, però va bene così, dai, mi accontento, Marco. Ciao anche a te. E più piccolino sono io, Macchi. No, piccolino no. Già buono anche il segnale, ottimo. Un più piccolo sono io per il momento. Sì, vedi. Allora guarda, inizio da Franco che è quasi 9 più 10, mai visto segnare così fra, e la radio è stupenda. Poi c'è Giulio, 9.20 assieme a Natalino, ma sei anche tu Natalino, sei 9.20 qua, ecco 4.30 che è stato, l'ho ritirato a luglio, si può dire era pronto, ma l'ho già ritirato a settembre, la verità è. E poi c'è Marco, che cazzo Marco, 9.35 liscio, la mazza che tiene varia. Vabbè, però senza ondulazione sarà 9.30, no? È sempre 4 watt. Vabbè, perché siamo vicini, dai, sono metà strada rispetto agli altri, più o meno. C'era anche prima Valerio con Giuseppe, no? Ma sono andati via, hanno cambiato canale oppure... No, Valerio è stato facendo cosa. Io poi mi sono allontanato perché ho il telefono con Capri. Stavo cercando un numero da dare, però non lo trovo. Se lo avevo messo da qualche parte, non ce l'ho la rubrica. Ce l'avevo l'altro telefono, però non accende più. Per vederlo, capito? Adesso l'ho messo a caricare, se riesco a recuperare glielo. Capito? Vabbè, comunque avete tutti gli ultimi segnali, Natali, con 4 watt mi sta arrivando 9 più 20, quindi non ti lamentare perché è un ottimo segnale, perfetto, radio pulita, tranquilla, perciò a posto. Ok, avanti Giulio, riprendi. Ok, sì, ultimi segnali tutti, poi interessante è ascoltarci, poi il segnale lascia il tempo che trovo. Io sono a 10 km da te, pensa un po', più o meno, anzi, forse di più anche di meno, perché cominciamo già, da qui a bottega sono 6 km esattamente, su strada, e non in minoraria, su strada 6 km, l'ho visto tante volte con conta chilometri della macchina, poi da bottega ad a te quanti chilometri ci saranno ancora qua, grosso modo, almeno 3 o 4 ci saranno, E tagliando dal garotto sì, però se così è da casa mia al McDonald's l'Italia faceva 6 km quasi, facendo da Via l'Italia 131 eccetera, quasi 6 km, quindi in linea d'aria ci siamo 12. No, ma vi vedo tutti, a te ti vedo, a Franco lo stesso, no, Franco c'è un ottimo segnale, poi un'ottima radio. Ho commutato al 4,40 siete uguali, forse un pelino in più, ma lì è questione di taratura proprio millimetrica dello smitter, però sono tutti e due regolati bene, già va bene. Va bene, va bene. Avanti Natali. Qualcosa d'alluminio che ti avevo chiesto, cercato là, Cla, perché io ho finito la parte elettrica, l'ho finita di quella storia lì. Adesso che me l'hai detto, è su, è su. E domani mattina prima di uscire me lo metto, me lo porto giù, capito? Ricordamelo domani così ti rubigli. Anzi adesso vado e ci deve essere la taffa nel poggiolo. Un'altra fettina dovrebbe essere nel poggiolo. Riprendi Marco che mi allontano un minuto. Ehi, dai, lo sono qua. E oggi sono proprio messo male, tutto dormito, non lo so, ma appunto la mosca Zezé deve essere, ma senza scherzi. Mi capire, Franco? Sì, dai che non sarà così. Volevo chiedere invece a Natalino se ha cambiato qualcosa come antenna, o se è sempre uguale. Oh, c'ho due filtri anche guai, c'ho qua uno collegato con l'altro, figurati, non ho cambiato nulla per il momento, mi sto costruendo l'antenna nuova. Infatti ero rimasto lì, pensavo l'avessi già modificata, già cambiata, dai. No, mi sono accorto che avevo fatto un errore madornale e allora ho dovuto rifare tutto da capo. Errore su che cosa? Sulla parte elettrica dell'antenna, capito? Sulla bobina, sull'avvolgimento? Tutta la parte elettrica, perché ci va un'induttanza e un condensatore, ribagliato con le ghendi e quindi ho dovuto rifare tutto a capo, anche le misure non erano giuste e adesso sono giuste. L'ho fatto da capo, capito? Tre volte l'ho messa a mano. Ho capito, e Giulio è bravo, guarda giù. Ma tutti siamo bravi, basta fare un po' di attenzione, problemi non ce ne sono qua. A proposito, Natali, guarda che io ho l'istruzione di una canna da pesca, che è come quella della finalino, diciamo, poi da punta, come avevi detto tu che ti mancava. Io te l'ho portato, mi ci vuoi già 3 o 4 giorni in bottega, ma tu non ti sei visto. Anzi, a dire il vero, un giorno ti ho visto che sei uscito, sei passato da via della Nuova Vinci. E io ero lì, ho chiamato, ma tu in macchina non mi potevi sentire in mezzo al traffico. Io già lo so, sono venuto 3 volte in bottega, ti sono stato sempre sarrato. Verso che ora arrivi tu in bottega? Verso, una per mezzo alle 10, 10 meno 4 di solito, eh. Io stai trovando 50 volte dove sono, guardando mai, infatti anche con l'amico ti ha visto mio a Natalino, mi ha detto, ma tu hai una bottega, io invece ti ho chiamato, ma tu eri alla guida e non mi hai potuto sentire. Ho visto anche io al bar, però lì non mi potevo fermare, ve la mettevo la mano. Ma insomma, da casa tua, dove ero io, sono 150 metri, non c'è più dove andare. Vieni, ti prendi quello spezzone che ti serve e via. Tanto mi deve dare anche Claudio quel pezzo d'alluminio per mettere la stampa, e tu mi devi dare quell'affare dello scaldo, come si chiama, quel tubo da mettere, quel tubo di scarico, tanto per intenderci, del lavandino. Io ho tutto lì che ti stavo aspettando per darti tu il tutto, ma tu non ti hai visto, capitina. Poi se ci vuole un bastone come rinforzo, lo facciamo, non è un problema. Vieni un po' tu, io sono lì, lunedì sono di nuovo lì, per cui vedi. Vai Marco, scusate il ping pong con Natalino, vai. Non vi preoccupate, tanto io ho poco da dire oggi. Sono ancora in stato di shock, dai. Eia. Antonello non c'è più in TMR, vediamo se è qua l'ascolto. Antonello, sei qua? No. Mi sa che è uscito pure dal fratello. prima eravamo tutti lì, poi ci siamo travasati qua in basso. Ma io non avevo detto di passare qua, anche a, a cosa, come si chiama, Graziano, e invece sono rimasti lì evidentemente. No, io mi ero allontanato, io ho smesso subito lì, ma mi sono dovuto allontanare e ho matto. Vabbè, vai, avanti fra. No, volevo chiedere un'informazione. Come si potrebbe sostituire quel ragnetto che c'ha la Mantova 1, diciamo sopra, come terminale? Avete qualche idea per caso? Lo riprendi, Marco? Il tasto è quello, non vale a niente, che è un pezzo di cosa, non serve a nulla. Non è per correnti elettrostatiche, roba così, roba del genere? Non lascia verde. Tappo di riguardo. Ma che cosa, di plastica, qualcosa per chiudere lì. Però no, non serve a niente quel ragnetto. Comunque è vero, ha detto bene Franco, è stato costruito appositamente per la corrente elettrostatica. È di plastica, è vero, ma proprio perché è isolante, è fatto apposta di plastica, per quel motivo fra. Poi quanto sia valido, questo non te lo so dire. Anzi, forse non lo sa nemmeno la Sigma quanto sia valido. Però il principio era quello. Ma noi tra le budaie basta, no, non se ne passa, è un tappo mi giù. Non è fatto nessun materiale conduttivo, nulla. Io, sì, ma Parigi, d'accordo. Ma infatti non, non deve essere conduttivo, proprio per quel motivo lì. Qua se fosse conduttivo, allora il discorso sarebbe diverso. È fatto apposta di plastica, proprio per non essere conduttivo in caso di calamità naturale, no? E il discorso è quello, Natali. Poi ripeto, quanto sia valido in caso di calamità naturale, questo non te lo so dire. Forse, ripeto, non lo sa nemmeno la Sigma. Il fatto sta che è stato costruito appositamente con quel principio lì. Riprendi Franco, vi siete sovrammodulati poc'anzi. Sì, ma direi che a proposito di tappo gli metto un tappo di champagne, di spumante. Scusate un attimo, io vado a portare il cane, Natali, poi rientrando salgo sul Monsanto, lo prendo e lo porto qua a casa, così lo metto dentro una busta e magari ci sentiamo domani, ok? Bianco, per me, dai, rientro subito. Ah, il telefono già è sempre acceso. Quando ci vediamo mi fai un colpo di telefono e mi faccio provare, dai. Va bene, adesso fammi portare il cane e poi quando rientro lascio il cane a casa, salgo su Mansarda e lo prendo, se no mi dimentico. E così ce l'hai lunedì. E domani mattina ti chiamo rientrando, intanto sono al lavoro, rientrando te lo passo e poi me ne vado, ok? Ma signore. Vale, riprendete, ci sentiamo dopo. Riprendi Marco, oggi non ti riconosco, sei un po' taciturno. Adesso ti faccio prendere il tocco veramente. Vengo lì e ti minaccio con quella piccolina che ti ho fatto vedere l'altro giorno. Eia. Eia, bella, bella. Sì. Troppo, ho dormito troppo, sono tutto in bambetto, scombussolato. Vabbè, la colpa è mia però, dovevo alzarmi e boh, e fare altro. Non fa niente, dai, che semmai rimango all'ascolto. Vabbè, dai. Sì, comunque, il guadagnetto, sì, di plastica, ma tu pensa che se ci dovesse essere un fulmine, manco lo vede come isolante, oh. Non capita poi. Sì, un tappo, come hai detto tu, di sughero, mi hai strappato le parole in bocca, o meglio un tappo di champagne, se il diametro è giusto, mettici quello. No, di quelli in plastica è meglio, di quelli che fatti di champagne in plastica, magari fa più effetto. Ma forse va bene, come dimensioni più o meno, per quanto mi ricordo, ci dovremmo essere. Di quelli di plastica di champagne, figlia, non di sughero. Di plastica di champagne, quindi fa anche da cappuccetto, anche esteticamente più bello. E magari fa più effetto essendo di champagne. Devo buscare un po' di cristal, boh. Vabbè, Don Perignon sarebbe meglio, oppure Moschandon. Scusa, che ci beviamo qui con Giulio e ci conserviamo il tappo, riprendi giù. Ok, sì, però se hai qualche sedia di quelle di ferro di una volta, in formica e con la struttura in ferro, ci sono i tappini, ne togli uno di quelli e glielo metti come tappo. va bene. E vabbè, e dopo il guai, dopo il ce l'ho io qua, mio, ho Natalì, ma cosa ti gridi? E allora se lui mi devo da fa franco, che pittina, se io non ne so occupata. Ti la avevo due, no, che ti la avevo medito e da bene mi dato da fuori a franco. A proposito, fra la radio com'è? Perché c'è il microfono di tavola. No, ma c'è fortissimo qua, quindi qui arrivi bene, dai. Appena compresa, però è molto forte, il segnale è sì, 9.30 quasi. Oh, forse per quello. Franco, alla passo. 50 centimetri, ed è a 2 appena, perché sennò magari potrei disturbare e non lo alzo di prima. No, guarda, se parli piano va anche meglio, va benissimo, per me non c'è un problema, per gli altri magari, per quelli più lontani, boh. Invece Giulio un po' non mi arriva bene qua, io ho problemi verso quella parte lì. Perché sono piccolino e nero, fra, io sto andando con l'antenna molto bassa, fra, per cui il discorso è quello. E verso quella parte probabilmente ci sono degli ostacoli, allora penso che la mia antenna cosiddetta di polo in verticale è installato un terrazzo a livello di pavimento praticamente, con un pezzo di tubo da un metro, non di più, ecco, siamo lì. Poi ci ho chiuso anche dalle quattro mura del terrazzino. No, adesso ti ho tirato fuori meglio, se alzi un po' la voce i picchi di modulazione salgono, quindi ti ascolto meglio di conseguenza. Ok. Vabbè, dai, così mi avvicino, con la speranza che non lo strappo troppo, quando magari mi ascoltano gli altri. E avanti Marco, parlando così da vicino al microfono, senza bisogno di aumentare il mic gain, è troppo? Secondo me è troppo forte, ti dovresti allontanare di più. E invece più chiara la voce, se no va come per strappare. Appunto, di quello che sto parlando, ma se mi metto così a distanza come dovrei mettermi, non so se Franco riesce ad ascoltarmi bene. Confermami Franco, se è così a questa distanza dal microfono mi sente, riesci a sentirmi bene? Sì, sì, adesso va bene, va bene. Natalia, come ti arriva a te, Giulio? Mi arriva bene, però cavolo, dovresti parlare più a voce bassa giù, ed è un bijou se tu parli a voce bassa, sembra che stai strillando. No, sto parlando a voce bassa normalissima, e questo è il mio tono di voce bassissimo, senza bisogno, allora mi devo allontanare qua di più, te? Adesso tutta la distanza, tutta la lunghezza del braccio, il microfono adesso è tutta la lunghezza del braccio, va bene così? Perfetta. Non lo so, devo tenermi a distanza, così. Oh, ripeto, aspetta che controllo il mic gain. Aspetta, Ecco, l'ho abbassato ancora un pochino, così dovrebbe migliorare ancora come intelligibilità del radio, vai. Così è perfetta, è perfetta. Magari così sono girata, quindi su tensione, per non toccare più nulla. Ma quando lo spolvero si muove, capito? E dunque poi bisogna sempre rimetterlo in quella posizione, perché è talmente sensibile. Tu immagina, tu hai presente lo spessore di una della carta di una sigaretta, così, e così, l'ho spostato così, non di più. Proprio è talmente sensibile che non è possibile appunto regolarlo troppo. Poi io me ne accorgo qua dalla LC che non supera. Ripeto, non supera in maniera eccessiva la linea rossa della LC, per cui questa dovrebbe essere la modulazione ideale, stando allo strumento qua. Tu infatti a uno lo devi tenere, io lo tenevo a uno e era perfetto per me, per la radio che avevo io, lo tenevo a uno. Cosa te ne sembra adesso fra di Giulio? Per me, ripeto, purtroppo il segnale su è basso, quindi la radio, se è un pochettino più forte io lo tiro fuori un po' meglio. Però se non ci sono dei dubbi riesco a capirlo, dai. Infatti voglio sapere il suo segnale, come ti arriva a te di segnale? Ma a me mi arrivi più forti, vuol dire. Io ho i led qua, quindi il segnale non ne posso dare, però mi arrivavano 10 sempre a me lì. anche se c'ha l'antenna in terra, se lui la mette come aveva l'antenna vecchia, quella canna da pesca, esce una bomba, senti. Eh sì, peccato davvero, perché quella parte proprio per me è cieca, e non si è matto, c'è ancora la mosca del sonno. Eia, qua Giulio arriva bene, praticamente modulato arriva a 9+20, portante fissa è oltre 9+15, modulato 9+20, è un ottimo segnale, dai. È l'altezza, è l'antenna tua, conta, eh. Lui è in alto, Marco, come ti arriva Giulio di radio, come glielo ho regolato io? Sì, meglio, prima era troppo... capito, quando tende a strappare. Eia, qua arrivate tutti bene, non ce l'è problemi. Vediamo se Claudio è rientrato, doveva portare il cane, mi pare, no? Franco, così e un tantino di più di watt, va bene così, Franco, riesci a sentirmi meglio così? Hai aumentato i watt? Sì, 2 watt ho aumentato, non di più, 2 watt in più. Di più puoi aumentare, no? Posso arrivare anche a 150, ma non lo faccio, capito? Non lo faccio. Vediamo, scusa un attimo. Anche per fare una prova, dai. Ecco, così siamo a 20, dai, a 20 watt, così, bene va così. Aumentato, ma non tantissimo, capito? Non lo so, io adesso ne sto usando più di 40. Ok, e tu mi arrivi a me Santiago 7 modulati 8, a questo smitter qua, però suppongo che vada bene, non lo so, io non voglio portare troppo, capito? E di solito massimo ne uso 10, ma quando oggi è un'eccezione, guarda, ne sto usando 20 in questo momento, perché poc'anzi ne avevo 10, adesso 20. Perché non gli fa male, no? Ma non penso che le faccia male l'apparato. No, non lo so, ripeto, io con questo posso arrivare modulati, anche a 150, ma non voglio portare io, capito? Non è il caso, sono con un dipolo, per cui non è il caso, Ofra. Ma purtroppo siamo negativi uno o l'altro, ci sentiamo facile, pazienza. Un giorno l'altro metterò un antennino sul tetto, va, chi lo sa. Che non ti fai una canna da pesca come quella che sto facendo io, cazzo, così non ha né radiali né nulla, fra. Sì, sullo stile, sì, andè. Lo so, ci vorrebbe una bella casa, una bella villa indipendente, un metro traliccio, e fai che ti piace. È senza radiali, senza nulla quella che ti sto dicendo io, leggerissima, qua, e esce un bel forti, più di una manto qua, se tu ti fai un'antenna del genere. Basta mettere una maggionda, senza radiali. Un Atari. L'ho trovato lassù. I due cavalotti ci sono, quello di su è leggermente aperto. Vedi se riesci a fare qualche asoletta, qualcosa. Perché era per quello che l'avevo tolto. Me l'avevo buttata giù l'antenna, il vento, e si era aperto. Poi ti ho dato un cavallotto in più. Vedi se ne trovi un altro più largo, non lo so, vedi di arrangiarti, comunque il pezzo c'è, va bene. Ok, intanto mi devi battere l'antenna a rubare. E vabbè, ma rivedilo con Giulio, c'è un dadino che non molla, capito? Quindi quello bisogna mettere in mossa, semmai se si rompe passare il trapano, intanto non è filettato il passante. Capito? Cioè, vedi di sistemartela, perché di quelle staffe lì non se ne trovano, eh? E quello è l'unico modo che hai per agganciare quell'antenna in fibra, capito? Uia, anda bene nera, mi devo comprare anche un bastone di scoppa, ma in tratti durenti. Bastone? No, il bastone di scoppa costa la fesseria, ma se trovavi un pezzo di tubo al politinere era meglio il bastone della scopa, che bastone della scopa con l'acqua si marcisce, capito? Vabbè, comunque comunque io me l'ho portato qua giù, domani mattina ti chiamo quando sto rientrando, però vedi cosa puoi fare, però vai da Giulio, vai da Giulio perché ci vuole la mossa, vuole pulito, c'è ancora l'altro vulcanizzante, sta attaccato, capito? Vabbè, già proviamo ad adattarla. Non c'è bisogno con Giulio, già lo sai, in quello di sopra che è attringere quello leggero che si è aperto, lì le metti una fascia in ferro, una fascetta in ferro con la chiavetta da 6 e lui rimane ferma, lo metti dentro prima l'antenna e poi metti la fascetta, ok, in ferro attringere, mentre quello di sotto devi solo togliere un buloncino, mettere il cavallotto che te l'ho dato e sistemi e attacchi l'antenna, capito? Proprio pulito, puliscita, non attaccare così, no? Va bene. Ok, così c'hai l'aggancio, perché quello con le delle di Diamond, capito? Vanno bene, sono gli unici che vanno bene. Dai, vado a portare il cane, lo su a prendere questa cosa. Ci sentiamo dopo se ci siete, ok? Comprati la farina al cane adesso che scendi, comprati un po' di farina. Sì, Gianna o Giulio, fate rumore senza mania farina, no? A chi è la categoria dell'organico, sì. In sassarese si dice russa e trudiegia, no? Immaginati se loro anche la farina. Siamo a posto. Vabbè, le fa bene, come la mano di Dio le fa. Vai, non fa niente, se la mangia Marco la fai, vai Marco. Allora, domanda, ma il cane, Claudio, ne può mangiare fainè, quindi legumi? No, non le mangia. Gli unici legumi che mangia sono le carote bollite, c'erano bollito, il coso delle zucchine bollite, capito? Con la pasta, però pure deve puoi dare anche così a semolato, un po' tagliato tutto a pezzettini tutto assieme, ma la farina no, la farina i ceci no, poi vero Pippo, in giro ti stanno prendendo, mandare un rumore, tu mandare un rumore, no. Vista guardando, diciamo là, ma che lavoro si faccia, vista che un microfono. Adesso ti manda Massimiliano, finito. Esci come è salito la testa, chi è questo? Questo è Cuocuomane, mi Pippo, Cuocuomane si chiama, la pagano tua Cuocuomane. Ma fai bene, ci sta facendo la pipì addosso, poverino, dai, che già è ritardo. Giulia, riprendi tu, io se mi aspettate torno subito, ok? Ok, io mi faccio subito a Franco, dai, che è un attimino in parcheggio, vai Franco. Non so se ci sono, se ci sarò dopo, là. Comunque un abbraccio, alla prossima, se non dove siete, domani riprendo dalla macchina, perché tra un po' mi preparo ed esco, dai, saluto a tutti. Ascolto, vi rimango un po' un ascolto per i saluti e poi forse riprendo dalla macchina, ok? Riprendi? Natalia. Papà, ciao Fra, buon proseguo, allora, alle prossime, saluti in famiglia, avanti Marco. Leia, ciao Franco, dai, buon proseguimento di serata, ci sentiamo. Ok, ciao Franco, buona gondovigliata allora, Buona serata, ciao Fra, alle prossime, grazie per la chiacchieratina, riprendi per l'ultimo salutino, vai, siamo tutti con le orecchie spalancate. No, grazie a voi per l'intrattenimento e per i consigli, dai, riprendi ancora giù. Ok, ciao di nuovo Fra, alle prossime, dai. Va bene, allora Marco, tu mi stavi dicendo che stasera hai dormito un po' più del solito e ancora non ti sei svegliato per benino. Insomma, e come mai? Quella era tutta mancanza di riposo, che tu la notte fai le ore piccole, per quello è che poi la sera te ne vai a letto alle 2 e ti alzi alle 7. No, anzi ho dormito stanotte, certo dalle 2 però. Guarda, io da stamattina alle 9 ho fatto colazione, poi mi ricorico, mi riaddormento, mi risveglio, mi giro dall'altra, mi riaddormento e sono tutta la mattina così. Poi alle 2:30 mi sono svegliato un po' di più, però come ho toccato il letto nel pomeriggio lo stesso, dormendo, svegliandomi, dormendo, svegliandomi, poi ho fatto una dormitina un po' più lunga, mi sono svegliato alle 6, tutto rintronato, tutto rimbambito. Ok, vabbè, succedono anche questi momenti così, perché perché alle volte uno non si trova in perfetta forma fisica, nel senso che magari hai dormito più del solito e prima di svegliarti bene ci passa un po' di tempo. Ah, succede, succede. Intanto ritorno a fretta, ritorno a 10. Sono ritornato a 10, visto che Franco ha chiuso, per cui va bene così, tanto voi già mi sentite. Avanti, Natalie. Via, ciucucucu, me. Avanti, ciucucucu, se ascolti. Ah, quello ci mancava proprio, me un bel ciucucucu ce l'hai dato, e così almeno siamo qua. Se hai voglia di parlare, siamo qua. Ok, vero Marco? Io non l'ho sentito per il ciucucù, ma forse chi è? Pomponio, tu sei? No, non è Pomponio, mi arriva bassissimo qua, saltiamo 5 quasi, per cui è basso, è basso. È un ciucucù troppo basso, è un trenino spompato, Marco. Oh, non è l'originale, no? No, non è originale, ma non è assolutamente no. È proprio un trenino molto, ma molto scadente. Ciucucù. Lo vedi il ciucucù? L'altro però, quello forte. Questo è originale, sta penalizzando, fortuna a tutti che ho sentito. Aspetta che stavo mettendo l'acqua nell'acqua per la pasta. Allora. Quello già è forte. A Puglia, ce n'è in abbondanza, ce n'è di segnale. Va bene così. A te le immagini, Antonè, qualcuno ti vuole imitare ma non ce la fa, perché è un ciucucucu troppo scadente quello che ogni tanto si presenta, ma non è la prima volta, mi. E ogni tanto ti viene la mania di fare ciucucucu. E dunque siamo qua, ma noi il trenino non ci piace, abbiamo tutti la macchina, per cui andiamo tutti motorizzati in macchina, personale. Vai Antonè. Ma a prendere con le biciclette del comune, c'è il coso qua, la... l'infermiera che viene con la bicicletta del comune la mattina per lavorare, l'aggancia al palo, è perfetta, è bella a me, la prende in affitto, ne arriva e se ne va in giro in bicicletta, già è alto 1,90, è bello piazzato pure. Ma domani ando a venire a voi. E se ce la fai, mi, bisogna che fai il giro a Tarimme, perché è bello alto, mi, io non ho vanta, è bello largo, mi. Beh, quindi no, che ancora io con le biciclette del comune non ne ho visto nemmeno una. Perché dove sono parcheggiate? Piazza Luglio mi sembra, credo, non lo so, dove sono parcheggiate queste biciclette? E Piazza Marconi. Ah, in piazza Marconi sono, ho capito. Ma si paga, voglio dire, ci vuole un abbonamento per poterlo utilizzare, cos'è? Com'è che funziona questo sistema? Ah, boh, non lo so, io anche glielo chiedo a quell'infermiera, cosa, se ha fatto abbonamento, oppure va ogni mattina a 20 ucezzone, cosa ne so, come fa? Sì, sono... No, adesso non mi ricordo cosa mi avevano detto, ma avevano riferito che per poter utilizzare quelle biciclette, che poi sono biciclette con la pedalata assistita, ci vuole una specie di abbonamento, oh, costa pochissimo, mio, una desiglia. Allora intanto so che ci vuole, poi non lo so, vabbè comunque, forse serve per l'assicurazione, non lo so a cosa si riferiva questo discorso, tessera, eccetera. Tu niente ne sai, Marco? No, nulla. Ah, praticamente sono quelle elettriche che aiutano a fare le salite. Io guarda, sono troppo posapiano, io preferisco lo scooter con la pedalata assistita. Mandrone. Se quelle hanno la pedalata assistita, sempre che le batterie siano rimangano sempre cariche, perché non lo so, a un certo punto la usi tu, la uso io, la usa il Natalino, la usiamo tutti, ad esempio la batteria si scarica, e sarà comune poi che penserà a ricaricarle, credo, ma chissà per quanto tempo funzioneranno, ma ho l'impressione che è stata una specie di spesa inutile questo fatto della spesa ciclabile qua, ma comunque, anzi io sarei contento che si che prendesse il volo questo sistema di circolazione, perché almeno lasciamo tutti la macchina da parte, ma mi sa che a Sassari non ce n'è voglia di andare in bicicletta o nata lì. Non mi pare di no, se pure pure d'acqua, mi fa sembrare l'anca di quando sono cagliuto, mi sono svegliato il telo, non piango per la vergogna. Guarda, era meglio che affittassero gli scooter, quegli scooterini piccolini tipo Scarabeo 50, quelli là dovevano affittare. E anche, oppure mettere la macchinetta dell'autoscontro. Non è possibile. Comunque, speriamo che non sia una spesa inutile questa della pista ciclabile, soprattutto queste biciclette. Mi sembra che ne abbiamo preso una quarantina, 30, 40 in comune, le abbiamo parcheggiate appunto dove stava dicendo Antonello, a disposizione della gente. Non lo so, speriamo che piuttosto che li trattino bene, che non li sfascino, sai, con la maleducazione che c'è stata, e anche chissà quante persone ne svolteranno di queste biciclette, speriamo di no. No, comunque, le prende Antonio. Sto contando la pasta, 2 minuti. E parla al dente, mi, al dente parla Antonio, non sbagliare la cottura. Avanti Marco. Sì, ya. Naturalmente, mamma mia, con queste piste ciclabili, che macchina, o anche in moto, ma la macchina è, devo stare attento quando svolta, perché se c'è a fianco la pista ciclabile e molti non guardano nello specchietto, rischiano di far cadere un ciclista che magari sta arrivando da dietro o affiancato, capito? Per esempio, a Porto Torres una volta, proprio allo scoglio lungo mi stava succedendo, io non sono abituato a queste piste ciclabili, stavo svoltando lì proprio dove c'è il parcheggio allo scoglio lungo e mi sono fermato in tempo perché ho visto nello specchietto arrivare una bicicletta, vedi? E anche a Sassari può succedere così, bisogna stare attenti. Vabbè, bisogna già stare attenti perché le moto ti superano comunque sulla sinistra, poi certi disgraziati superano anche a destra. E vabbè, bisogna stare sempre attenti, dai, macchina, bisogna avere occhi da tutte le parti. Ah, questo non ci sono dubbi, bisogna stare molto ma molto attenti. E il problema, secondo me, sai qual è? Che abbiamo un'abitudine brutta noi di usare troppo la macchina. Bisognerebbe camminare a piedi anche a Sassari. Se poi vogliamo usare la bicicletta, tanto meglio, non ci sono problemi. Soprattutto per il fatto dell'inquinamento, guarda, perché siamo messi male. Sembra così, non è come Torino o come Milano, ma anche qua siamo messi male come inquinamento. Perché ci sono certe strade, ad esempio lì a Pascoli, quando passano le macchine, sai come si sente l'odore del fumo della macchina? Moltissimo si sente. Perciò noi avremmo dovuto, secondo me, chiudere definitivamente il traffico almeno su tutte le strade più centrali, dare solo la possibilità di passare all'esterno della città, ma veramente all'esterno, nelle strade esterne. Naturalmente i mezzi pubblici devono essere più numerosi e anche le macchine da trasporto, quelle devono passare per forza perché devono lavorare, ma il privato come te, come me, come Natalino eccetera, ne possiamo fare benissimo a meno della macchina, lasciarla parcheggiata da una parte senza andare a inquinare e soprattutto a intasare il traffico cittadino. Io la penso così, Marco. Solo che, mamma mia, che arriva là fuori, trovare tutto il centro pedonale, se ne farà un po' di strada. Guarda, già questa ZTL non serve a molto perché ci passano le moto possono passare a qualsiasi ora, quindi non è nemmeno pedonale lì la zona, ma poi tuttora Ari, boh, alla fine crea disagio e boh. Io non sono per il centro chiuso, chiuso le macchine. preferivo più come la piazza Castello una volta, che era aperta, era divisa a metà, passavano le macchine, potevi parcheggiare. Ma piuttosto avete visto Milano, il fumo che c'era, la nebbia che c'era dovuta agli scarichi delle macchine, di fabbriche e tutto il resto, e si vedeva un vigile urbano con la mascherina protettiva. Sì, ma appunto l'ho visto io, guarda, la base ieri in televisione l'hanno fatto vedere, ma è una pochina, poi si vede a vista d'occhio lo fumo, sembra che ci sia la nebbia in quelle città, ma anche Torino è uguale, non si crede che sia diverso, e tante altre città dell'Alta Italia soprattutto, e anche Roma non è, ma anche Sassari ha dei problemi, guarda, io sì, tu dici è meglio che ci sia il traffico, sì, è meglio perché ce lo permettono, ma se fosse chiuso il traffico per tutti sarebbe uguale, ma o manco, secondo me non farebbe nessuna differenza, l'unica differenza è che avremo modo di camminare di più, che poi tra l'altro camminare in tutta salute, tu vedrai, ma ci sono persone anziane, sì, ma in quanto a quello tra l'altro bisogna incentivare di più i mezzi pubblici, non che ne faccia uno ogni mezz'ora, no. E il mezzo pubblico è soprattutto abbassare il prezzo del biglietto, perché allora funzionerebbe la città e tutte le macchine dei privati sarebbero messi fuori dal centro perlomeno dalle strade più trafficate. Io avrei fatto fare così, tutto all'esterno della città avrei fatto circolare, perché è giusto che non ci sia il traffico o la chiusura totale, però solo nelle città, nelle strade esterne alla città, quello sì, ma al centro no, tu al centro non c'entri in macchina, avrei detto no, qui al centro non si passa, bisogna andare con i mezzi pubblici oppure a piedi o in bicicletta, con al limite col motorino, ma non con le macchine, è diventato un caos generale, Marco, no, non è possibile, guarda. Poi adesso stanno nascendo i motorini elettrici e almeno non fai nemmeno sforzo con la bici, perché un po' di sforzo devi sempre fare, e ci sono questi motorini elettrici, li ho visti alla fiera, no? Però sono ditte, non è Piaggio Mit per dire, ditte mai sentite, che magari chiudono le patenti dopo un anno e tu non hai più ricambi, però intanto li stanno facendo. E quella è una valida alternativa, sempre al solito motore. E poi a Milano mi pare abbiamo bloccato tutte le macchine, ho compreso l'Euro 5 mi pare, perché non c'era vento e non si riusciva a far disperdere questo smog, caspita, come in Cina, mi sembrava uguale alla Cina, a Pechino, che c'era volte c'è proprio il fumo fitto, ecco perché girano i cinesi e poi si aprono queste mascherine, perché o per le influenze, per non prendere e per non contagiare l'altro, perché anche in Giappone hanno senso civico, Cina e Giappone, se la mettono sia per non prenderla e anche per non contagiare gli altri, sia per lo smog e per l'influenza, allora che lì ce n'è una ogni anno e poi arrivano da noi. Guarda, io nonostante che io abbia 75 anni e 6 mesi anche, io sarei contentissimo di circolare in bicicletta, solo che ho paura, e pensare che la bicicletta se mi è nuova anche, nuova, sai cosa vuol dire nuova? Fiammante, qua a casa ce l'abbiamo la bicicletta, sempre messa da parte sulla strada. Però il problema sai qual è, Marco? Che ci sono troppo scelerati, ci sono in macchina, e c'è paura di andare in bicicletta, se no io sarei salito addirittura da dove abito io, per arrivare lì al centro, sarei andato in bicicletta, ma non è possibile, perché ci sono troppi scelerati, se ne vengono letti in vetro e ti ammazzano, capito? Per cui non puoi avere la sicurezza che uno dovrebbe avere. Perché? Perché ci sono troppi passi in macchina. Finché fosse nel moto, vabbè, tutto va bene. Ma c'è la macchina che il ciclista lo investono e lo ammazzano. E il discorso è quello, Marco. Quello è vero. Si rischia anche in moto, anche nei motorini li ho visti fare pazzie, ma anche le macchine, poi certe donne proprio non sanno guidare, a malapena sanno toccare il freno. Vabbè, purtroppo ci sono donne brave, quello è vero, ma ci sono donne anche schiappe. E sia in bici che in moto si rischia molto, si rischia molto. Addirittura sarebbe meglio mettere il caschetto da moto, il caschetto da bicicletta per sicurezza, eppure il caschetto protegge poco, mi protegge solo la calotta sopra, sulla calotta sopra della stessa, ma ai lati non protegge, non... Infatti molti ciclisti, nonostante il caschetto, sono morti lo stesso cadendo, te le immagini, morti per una caduta in bicicletta. Non credo, che si sa, il discorso è sempre quello, non c'è caschetto che valga, se ti investe uno in macchina è un discorso un pochino troppo pesante, è una situazione pesante da affrontare, non è possibile, basta, non è assolutamente possibile. Per cui tanta gente ha paura di andare in bicicletta, perché se no ci sarebbe tanta gente disposta, anche se chi non ha la bicicletta se la comprerebbe, ma no, saremmo dovuti andare tutti in bicicletta, o perlomeno al limite massimo un motorino, ma la macchina bisogna metterla a parte, la macchina, ci sono troppe persone scelerate, troppi pazzi ci sono, che ancora non hanno capito cosa vuol dire il valore della vita, soprattutto della vita altrui, perché magari finché si ammazzano loro direttamente va anche bene, chi se ne frega, peggio per voi che avete fatto gli imbecilli, però chi ci va di mezzo sono le persone, quelle che camminano con la testa attaccata al collo o matto, il problema è sempre quello. Vai Nathalie, ancora qualche passaggio poi chiudo per la cena, vai. Rientrato. Ok, giù. Un attimo che mi sto mettendo in disabili. E io non ti pugliami. Guarda che hai il cane che ancora è piccolino e non può vederti in quale condizione, mio Nathalie. Stai attento. Rientrato sì, qua, va bene. E adesso io chiudo, mi sono già quasi le 8, mancano 3 minuti. Per cui è l'ora della pappa, perché Filippo ha mangiato, adesso tocca a me mangiare anche. Marco ancora già è sazio, ha mangiato un'ora fa, per cui già va bene ancora aspettare. Vero Marco? Ah, io non ho ancora pranzato, Non hai ancora pranzato? Ehi, all'anima, caspita. Ma i tempi si stanno sempre allungando. Prima pranzavi verso le 6 e mezza, poi si è passato alle 7, adesso si è già alle 8. Vai qua. Fra poco non mangia bannuta. Noi abbiamo ordinato fene e pizza stanotte, c'è mio figlio a cena e poi se ne va al 3 di Giulia, stiamo aspettando quel detenuto di mio genio, ho detto passare lei, a pigliarla all'otto, mi sa che ancora non è passato e niente, poi mi guardo la partita, capito, c'è Napoli-Inter stasera, io spero che l'Inter faccia un miracolo. Che faccio un miracolo, ma ha giù la vaga impressione che nei biglietti così brulite sta gira. Anch'io ho una brutta sensazione, l'Inter non è all'altezza del Napoli, per cui penso che le probabilità di vittoria dell'Inter sono molto scarse, possiamo dire, 20 a 80 diciamo, dai, 20 a 80, un 20% per l'Inter e un 80 per il Napoli, speriamo di no, speriamo che sia diversamente la cosa, che vinca l'Inter, speriamo veramente, ma al limite mi accontenterei anche di un pari, un pari potrei essere contento lo stesso per un pari, intanto nel frattempo anche Marquini non gioca domani, perché anche lui è infortunato, Ita Juve è sempre infortunato, tutti infortunati, no? Non è possibile, in compenso in gruppo cioè, è stato convocato Marchisio, ma bisogna vedere se può giocare, che ne so, non è possibile, non è possibile qua. Guarda, ho già detto stamattina, per me diventa un po' difficile iniziare a comprendere questo campionato, il fatto è che il Napoli quest'anno per me è favorito, ma c'è anche l'Inter che è abbastanza forte, ancora gli scontri diretti non ci sono stati, però ne vedremo delle belle, vabbè. E niente, stiamo parlando di quello appunto, io sto aspettando, sono le 8:15, sarà qua, insomma. 7:30 inizieremo a cenare, ma niente di che, ti ripeto, qui se fai iniziamo, perché dobbiamo uscire, però io non ne ho voglia, poi domani mattina devo lavorare. Sta iniziando a prendermi male, mi Giulio, forse perché so che me ne devo andare, non sono più motivato a andarci la domenica, capito? Avrei preferito domani mattina alzarmi tranquillo, verso le 8:30, alle 9, andare a fare colazione al bar, leggermi il giornale, capito? Invece no, menaggio bisogno di zinc e mezzo, mamma mia, non ce l'ho più quella motivazione, Giulio, ti dico la verità. Mi è passata, tu mi hai sempre contato, però mi è passata perché so come devo andare, quindi non ci vado volentieri più, mi capito? Poi fai girare per Marco. Ok qua, indubbiamente dopo una vita di sacrificio, è chiaro che un uomo si stanca anche di certe abitudini, perché non è possibile poter lavorare 40 anni grazie a con certi sistemi di lavoro, così tutte le mattine alzati presto, poi specialmente adesso che incomincia ad esserci un pochino freschetto la mattina, e domani magari anche piove, domani sarà anche peggio per te, perché piove, perlomeno stando a quello che hanno comunicato col meteo, e chi lo sa, e vabbè, meno male ancora, dai, un paio di mesi ancora, no, e poi finisci. E così almeno ti dedichi a un altro tipo di vita, una vita un po' più riposata, tranquilla, in modo che possa godere la pensione, eccetera, perché intanto il discorso è sempre quello, alla fine anche quando sei in pensione sempre qualcosa da fare ce l'hai, però ce l'hai per conto tuo e è diverso, non è come sapere che hai un obbligo da assolvere, lì se ne hai voglia ne fai, se non hai voglia non le fai, per cui va bene così. Bravo, dai, signori belli, io vi saluto, dai, vado a cenare, grazie per la chiacchieratina, ci sentiamo eventualmente domani sera qua, domani mi stai dicendo che stai lavorando, per cui non è possibile domani mattina. Ciao Marco, ciao Claudio, ciao Natalino, salutoni a tutti e tre, ascolto il vostro finalino e dopodiché chiudo. Riprendi pure, oh Marco, vai. Ciao Giulio, dai, buona cena, buon tutto, ci sentiamo domani. Vai Claudio, vai Natalino. Ah, vabbè, buon proseguo giù, già ci sentiamo, alle prossime. Il cane comunque non c'era, che è in giro con la mamma. Aspetta, saluto Giulio, ciao Giulio, che mi ero lontanato un attimo. Buona serata, buon tutto, grazie alle due chiacchiere, da domani. E domani poi ti intendiamo, speriamo bene, dai, alle prossime, ciao. Ok, ciao a tutti di nuovo, grazie. Tanto mi adesso si comincia a accendere la televisione, per cui vediamo un po' come si mette la questione. Ciao, saluto ancora a tutti, ciao. Ciao, buona notte. E io ruota chiudo, mi guardo un pezzo di telegiornale che oggi ero nel limbo, dai, ci sentiamo domani, pioggia, pioggia permettendo. Vabbè, ma lo so di cenare perché ormai te ne stai già andando. Vabbè, devo anche cenare, tra pochi istanti mi, e poi mi guardo un po' di telegiornale, dai, oggi non sono in forma. Non che gli altri giorni siamo molto più in forma, dai, comunque, dai, ci sentiamo domani. Va bene, dai, ci sentiamo allora, ciao, buonanotte, alle prossime. Fai Natali, se devi chiudere, chiudi tranquillo anche tu, io rimango in ascolto. E poi me ne vado a cenare, tanto non vi già arrivi dalla truppa, avevo già casino. Ok, Clara. Buonasera a tutti, grazie per le due chiacchiere. E anch'io chiudo e me ne vado a cenare, che subito arriva mia moglie col cane e facciamo qualcosa da mangiare qua. Ci sentiamo alle prossime, ciao a tutti. Ciao Natalia, domani e io la scelta accesa, insomma, che chiami qualcuno. No, mi sto giocando con Lugani, come al solito, bisogna prendere il porto, i sensi, capito? La foto con la nonna, con la mamma, con l'uomo, il dopo. Ciao, tutti a cenare siete.